Rassegna Stampa Europa. Cari ascoltatori, un buongiorno a tutti voi, un saluto da Gigi Donnelly, benvenuti a questo appuntamento settimanale con la stampa europea, la stampa che parla dell'Europa attraverso le istituzioni, i paesi che la compongono. Allora, oggi partiamo da lontano, da quelli che sono i confini sudorientali dell'Unione, quindi un articolo del quotidiano Jurnalul Național, siamo in Romania, che racconta una vicenda di affari poco chiari intorno ai permessi che vengono rilasciati ai cittadini della Moldavia per entrare e acquisire la residenza in Romania. Dove sta la questione? Evidentemente la Romania è un paese dell'Unione Europea, per un moldavo, comunque per un extra europeo, un extra comunitario, come siamo stati abituati a dire, acquisire il permesso di cittadinanza in Romania si di fatto apre le porte a quello che è il sistema europeo e quindi al libero accesso. Ecco, l'articolo di Jurnalul Național racconta di un vero e proprio racket. Ci sono in ballo 100 euro per ciascuna pratica, 100 euro che vanno versati agli intermediari per aiutarli ad aiutare, e dunque si suppone chiaramente dal testo a corrompere i funzionari, per avere dunque la preziosa carta che assicura ai moldavi il diritto di residenza in Romania e dunque in Europa. Restiamo a est con un articolo che invece viene dalla Polonia, il quotidiano Rzeczpospolita, che da Varsavia racconta quella che è l'annata numero 4, come la descrive, della crisi. Dunque povertà, disoccupazione, salari bassi e un morale sotto i tacchi, scrive il quotidiano polacco. Questo è il prezzo, dice, che stiamo pagando per il rallentamento economico, e questo è proprio un articolo di ieri. Il quotidiano è quello conservatore e vicino dunque al governo. L'articolo fa un paragone tra la situazione economica del paese negli ultimi 4 anni, dice che nonostante ci sia stato anche quest'anno una crescita del PIL, per quanto ridotta allo 0,5%, quello che pesa è soprattutto la crescita dell'occupazione, che aumenta, e spiega appunto il quotidiano polacco, solo quest'anno la disoccupazione in Polonia è cresciuta di quasi il 3%. Ancora nell'Europa, in questo caso in realtà più centrale, anche se dalla nostra prospettiva è orientale, la Slovacchia, quindi area danubiano, un quotidiano che si chiama Pravda, quindi la verità, come la altre Pravda di antiche memorie, ma dunque il quotidiano slovacco dedica un articolo alla debolezza dell'euro e dice: perché no? In fondo la debolezza dell'euro potrebbe essere per tutti noi la chiave per sostenere la ripresa dell'economia, una sorta di vecchio adagio che anche in Italia e in tutti i paesi di fatto europei, direi del mondo, è stata di volta in volta sollecitata, cioè quello di una moneta più debole, più accessibile, per favorire dunque le economie, naturalmente a cominciare dall'esportazione. Mister Euro è sotto il fuoco di Bruxelles, è invece il titolo del quotidiano olandese Handelsblatt. Dunque Mister Euro, forse chi segue appunto i programmi in particolare dedicati all'Europa sa che è Jerome Dijsselbloem, è il giovane leader dell'Eurogruppo da non più di 3 mesi. Già nei primissimi giorni del suo ufficio era stato messo sotto il fuoco per la vicenda Cipro, che lui aveva gestito appunto con altre alte figure delle istituzioni europee. Comunque, in questo articolo di Handelsblatt, che dice appunto Mister Euro sotto il fuoco di Bruxelles, si racconta di come Gerald Dijsselbloem non sia affatto popolare a Bruxelles, e prosegue l'articolo, dice: per quanto sia una persona piuttosto apprezzata, una persona cortese e anche rispettata per le sue competenze, insomma molti funzionari dell'Unione in forma anonima si lamentano di lui, e soprattutto ultimamente sta emergendo una lamentela specifica secondo la quale Mr. Dijsselbloem, Mr. Presidente dell'Eurogruppo, avrebbe una politica troppo olandese, una politica troppo attenta a quelli che sono gli interessi olandesi e non a quelli che naturalmente a quelli che sono gli interessi dei paesi membri dell'Eurogruppo, cioè 17 paesi membri. Quindi Mr. Euro è nuovamente, potremmo dire, sotto il fuoco delle attenzioni non proprio amiche. Il quotidiano Handelsblad, lo ricordo, è un quotidiano olandese, quindi del paese del presidente interessato, paventa addirittura il fatto che la sua carriera alla guida dell'Eurogruppo possa essere più breve del previsto. Dall'Olanda alla Francia, Le Figaro, dunque un quotidiano classico, uno dei grandi quotidiani francesi, espressione della destra, diciamo, per comodità francese, fa una riflessione che di fatto misura un po' lo stupore. Il titolo è «I 10 comandamenti di Bruxelles al presidente Hollande». Che cosa accade? Letteralmente lo leggiamo, dice: per quanto ci siamo abituati a sentire un po' di tutto, ci sono alcune cose che ci sconcertano, scrive Le Figaro, e una di queste cose è vedere la Francia sul banco degli imputati assieme alla Spagna, alla Polonia, alla Slovenia, e a sentirsi dettare una lista precisa di riforme da compiere. Insomma, il quotidiano francese Le Figaro non la prende affatto bene e riflette sul fatto che a suo avviso, dunque, la presidenza di François Hollande per adesso sul fronte europeo ha portato soprattutto a questa imbarazzante situazione. Dalla Francia proseguiamo il nostro Grand Tour d'Europa. L'Ungheria, Magyar Hírlap. Ecco, ma l'Ungheria è un paese che abbiamo tanto seguito nel corso di questi ultimi anni. Spesso la guida del presidente Orban è stata al centro delle critiche e delle accuse, anche in alcuni casi, di un vero e proprio braccio di ferro tra ovviamente Budapest e le istituzioni europee. Bene, il quotidiano Magyar Hírlap è invece decisamente dalla parte del presidente e racconta come le misure economiche e politiche, per certi versi, che lo stesso quotidiano definisce non ortodosse, in realtà sono molto efficaci. E prosegue: per quanto l'economia ungherese, come quella di tutta Europa, sia in condizioni complesse e difficili, siamo però pronti come paese, come Ungheria, a costruire adesso sulle fondamenta degli interventi economici voluti dal governo Orban un modello economico. Lo ricordiamo forse che già in passato l'Ungheria, dopo la caduta del muro, insomma, è stato considerato a suo tempo un modello economico, non ultimo per il fatto che fu il primo paese del blocco dell'est a aprire le porte alle fabbriche straniere. Importante fu, simbolico, il caso della Suzuki, quindi del produttore giapponese alle porte di Budapest. Ma secondo il quotidiano Magyar Hírlap, il paese, con tutte le sofferenze del caso, è però pronto a ripartire e, dice il quotidiano, una delle ragioni sono proprio le scelte politiche di tassare pesantemente le multinazionali, così tanto criticate dall'Unione Europea e che invece oggi sostengono e permettono delle condizioni di ripresa. Vi segnalo, in realtà è su diversi quotidiani la notizia, ha fatto il giro d'Europa, ma ci piace prenderlo da un quotidiano britannico, riguarda l'Italia. Il titolo è «African refugees in Italy told to go to Germany», quindi praticamente gli immigrati clandestini, rifugiati africani che, fermati nel porto di Amburgo, dicono: ma in realtà ce l'hanno detto gli italiani, hanno detto prendete questo documento di transito e andate a nord. La cosa ovviamente ha creato un po' di malumore. L'articolo racconta: centinaia di rifugiati africani della guerra civile in Libia hanno ricevuto 500 euro a testa dalle autorità italiane con l'invito di procedere verso la Germania. Ecco, questo articolo in particolare poi è un lungo racconto anche con alcuni aspetti ironici di questa vicenda e dell'indagine, oltre agli aspetti drammatici, perché stiamo parlando di persone che attraversano un continente cercando di fuggire dal caos del loro paese. Viene ampiamente raccontato, come dicevo, da molti quotidiani, tra i quali quelli britannici. Direi che siamo arrivati come sempre alla nostra conclusione per la rassegna stampa europea. Come tutti i nostri programmi, vi ricordo che la ritrovate su radio24.it. Non mi resta che salutarvi, augurarvi un ottimo fine settimana. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.